Voci in scena di Marta Cagnola. Saluto da Marta Cagnola, un nuovo appuntamento con gli incontri con i grandi protagonisti del cinema, della musica, della cultura. Oggi parliamo con un regista campione di incassi, nato a Roma nel 1968, diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, comincia a scrivere per la TV e per il cinema nel 1994. Scrive numerose fiction e molti film di cassetta, tra cui tanti cinepanettoni. Nel 2006 la sua opera prima come regista, Notte prima degli esami, gli vale un David di Donatello, un Chuck d'oro, un Telegatto, il premio del pubblico al Festival di Annecy e oltre 15 milioni di euro al botteghino. Anche coi film successivi mantiene ottimi risultati di box office. Intanto continua a fare lo sceneggiatore, ma si dedica anche alla produzione. Quest'estate è sul set di un nuovo film, Pazze di me. Lui è Fausto Brizzi. Ma io mi sono segnato i personaggi femminili più divertenti che ho conosciuto negli ultimi 40 anni e li ho messi tutti nello stesso film. Cioè, quando vedevo una caratteristica che mi faceva ridere in una donna, me lo segnavo, dicevo un giorno farò un film sulle donne e ci sarà una che ha questa caratteristica qua, e di cui quella che mi diverte di più, appunto, come diceva, la mamma fatta da Loretta Goggi, che è una donna che mette nella stessa persona le caratteristiche dei padri e delle madri, insomma. Quindi è tenera ma severa, insomma, a seconda delle situazioni. E soprattutto non ha mai voluto un compagno nella vita, perché in qualche modo lo è già doppia. No, mi sono divertito molto. Francesco Mandelli sarà la vittima designata, insomma, di questa famiglia di donne. Quest'anno farà la doppietta, lui prima con I due soliti idioti a Natale e poi un mese dopo esce con mia figlia. La serice, dai come spinge entrare nell'ordine dei cosa. Salve, è arrivata tua moglie. Dov'è? È laggiù in fondo che sta parlando con Eva. Porca stufa. Ehi, ciao, come va? Bene, sono passata al volo. Bene, di cosa stavate parlando? Monica mi stava raccontando che quando finiamo il campionato tu e lei ve ne andate un mesetto al mare in Grecia. Questo stava dicendo. Ma non è sicuro. Cioè, è sicuro ma non sicuro, perché col bambino non si può mai dire. Poi la Grecia, non dimentichiamoci quello che è successo fra Sparta e Atene. Insomma, sono tensioni che covano ancora sotto la cenere. Non vorrei che quest'estate gli tornasse voglia di seppellire l'ascia di guerra. Lì è un attimo che si allarga, mi entra il Peloponneso e poi il Tigri, l'Eufrate. Sì. Mo' a Ferragosto scoppia la guerra di Troia. Quanto sei stupido, ti ha sempre di giocare. Non abbiamo prenotato. Ieri ha preso i biglietti per il traghetto. Ah sì? Anzi, sbrigatevi a vincere questo scudetto, vi prego, perché io mi devo riposare, eh? Dai. Speriamo. Amore, io scappo che tra un po' la poppata. Brava. Ci vediamo a casa. Sì. Ciao amore. Ciao. Ciao Monica. Hai preso i biglietti ieri? Sì, ma rimborsabili. Lì si capisce già che... Walter. No, tranquilla. Io ti giuro che entro sabato glielo dico. Bene. Allora sabato sera vieni a cena a casa mia. E poi magari ti fermi anche a dormire, ok? Perfetto. Come hai fatto a scrivere al femminile? Con una sceneggiatrice, banalmente, con Federica Bosco e anche con Marco Martani, che è il mio sceneggiatore storico. Mi sono fatto consigliare, insomma, sull'universo femminile da una super esperta, diciamo. Hai citato Marco Martani, non può non venire in mente la Lucisano Factory dei bei tempi e quindi il fatto che voi abbiate un... Non so di cosa parli. Insomma, non è mai esistita. Dai, diciamo del fatto che ci sia un gruppo di amici che si ritrova e che riesce a collaborare come succedeva un tempo nel cinema italiano. No, questo esiste assolutamente, al di là delle produzioni. Insomma, in questo momento c'è chi ha un contratto di qua, chi ha un contratto di là, chi ha una sua società, chi non ha una sua società. Fatto sta che ci frequentiamo molto con ovviamente con Marco, che scrive con me, con cui sono anche socio, e con Massimiliano Bruno, e con Paolo Genovese piuttosto, e con Luca Miniero. Insomma, abbiamo scritto addirittura insieme tutti e cinque un film, forse uno dei più brutti degli ultimi anni, insomma, Questa notte è ancora nostra. Quindi ci siamo fatti valere. Quando lavoriamo tutti insieme ci facciamo valere, insomma. Papà, un attimo, sono con un cliente. Le dicevo che fa bene, che è previdente da parte sua. Ed ultimamente non mi sento molto bene. Acidità di stomaco, piccoli dolori, ipocondrie. Allora mi avvantaggio, capisci? Capisco. Oh, ma la cinese l'hai vista? Sì, tutta a posto, dai, sto con cliente, vai. Bellissima! Le piace? Molto! Questo è un bel pezzo. Sente, mogano pieno. Bella, resistente. Per un uomo che ha classe, però che non ama ostentare, ecco. Mi piace, la posso provare? Come? Dico, posso provarla? Sì? Grazie! Prego. Ecco. Per vedere se... Un po' cortina, forse? No, no, no, no. Ecco. Ah. La sento un po' strettina di spalle. Guardi, non c'è problema, perché il mogano con l'umidità va a dilatare. Come sto, sinceramente? A morte sua. E questo viola, che ancora non mi convince, perché secondo me non si intona bene con la giacca. Questa sarà l'ultima, quella definitiva? Sì. Mi posso vedere? Come no. Prego. Grazie. Beh, guardate, ci penso, perché mi sento già un po' meglio. Fatemici pensare ancora un po'. Le donne tendono a complicare situazioni apparentemente semplici, cioè che per un uomo sono assolutamente semplici, e la situazione improvvisamente si complica e tu non capisci nemmeno quando si è complicata. E i tic che hanno nel film non te li dico ancora, perché sono... L'idea del film ce l'ho da un po', tu pensa, ce l'ho forse dai tempi di notte prima degli esami di fare questo film qua, e aspettavo di trovare un comico sui 30 anni. Per farla, cioè gli altri che ho usato sempre, insomma, De Luigi era un po' fuori età per fare quello che abita ancora con la madre, quindi aspettavo di trovare un comico. Quando ho visto Francesco in azione ho detto vabbè, l'abbiamo trovato ragazzi, facciamo quel film. Maurizio! Maurizio! No, mi dispiace Nicoletta, mi dispiace, porca miseria, mi dispiace. Va bene, ti dispiace, ma mi spieghi per favore? La porta è blindata per proteggere le informazioni dell'archivio. L'apertura e la chiusura sono comandate da un sistema automatico a tempo che scatta alle 18:15 in punto. Mi dispiace. Ma che problema c'è? Diamo una telefonata e ci vengono a prendere, no? Non c'è campo qui sotto. E ci sarà un telefono fisso, no? Su sì, qui no. Maurizio, vigilanza! La vigilanza, se ne frega, lo so, guarda, Maurizio se n'è già andato. Scusami, allora tu mi stai dicendo? Che spero che tu non abbia impegni inderogabili da qui alle 7:30 di domani mattina in punto. Oddio, un incubo. No, Nicoletta, devi stare calma. Ma non cazzo! Zen! Io voglio tornare a casa mia, qui dentro non ci voglio stare, ho fame, ho sete. Questo non è un problema. Tonno, piselli, prosciutto. Zuppa, pancetta, formaggio, cioccolata, biscotti, budino, vino, vino. Se la signora ha qualche desiderio, noi siamo qui per servirla, vero? Già è successo con femmine contro maschi, insomma, o con ex, insomma, diciamo che è un argomento abbastanza battuto, insomma. Sì, sì, c'è chi dirà che è un film troppo femminista o troppo maschilista. Le donne diranno che è troppo maschilista, gli uomini diranno che è troppo femminista, è ovvio. Per me è reale, è esattamente così che accade, cioè le donne comandano e gli uomini subiscono, credendo di comandare. E allora vai, dichiarati. Se lo faccio davanti a tutti mi prendono in giro, lo sai. Allora scrivile una lettera e poi gliela dai quando non mi vede nessuno. Ma non so cosa scrivere. Tu sei fortunato. Vieni a ricreazione che te la scrivo io. Io sono un esperto. Io nasco scrittore di lettere d'amore. Sentiamo, è meglio iniziare con la data. Scrivi la data di oggi. Compà, ma io mica gliela consegno oggi. Vabbè, lasciala in bianco. La facciamo postdatata. Tipo assegno. Non è il reato. Si può fare, fidati. Allora, iniziamo... egregia Giada. Egregia però... Cara. Cara Giada. Caraggiata è buono. Ah, qua sei? I ragazzi sono già in sala prove. Mi avevi detto che ti prendevi mezza giornata di ferie. L'ho presa, ma sto scrivendo qua una lettera d'amore per mio compare. 5 minuti e ce ne andiamo. Vabbè, vi aiuto io. Alzati. Aspetta, poi te la ricopi. Dai. 2 minuti, con lui la facciamo veloce. Allora, bello, Giada. Sì, Giada, la bambina si chiama Giada. Sì. Caraggiata. Caraggiata. La presente unicamente per significarla della... Chi hai? Che stai facendo, una richiesta per il passaporto? No, ce l'ho già. Ma dici tu è troppo formale? Certo, che... Vabbè, ma è ironia. Scrivi. Allora, Caraggiata. Caraggiata. L'amore è una cosa che non si può spiegare. Quindi, come te la spiego? Come glielo spieghi? Non si può spiegare. E quindi che cosa scrivi dopo? Dopo questa cosa che hai detto, che cosa scrivi? Ti sei andata a chiudere, in un riga e mezzo ti sei andata a chiudere, non c'è più niente da dire, record, un riga e mezzo e sei chiuso. C'è una cosa che ti piace di quella che ho pensato io? Caraggiata è bellissima. Ecco, allora ricomincia da lì. Allora, Caraggiata. Caraggiata. Devo chiederti solo una cosa sulla produzione. Tu hai aperto la strada ai grandi incassi con Notte prima degli esami, peraltro a sorpresa. Fai anche il produttore, è da pazzi in questo periodo di crisi. È da pazzi, produco anche i miei film, piuttosto che i film degli altri. Insomma, quest'anno abbiamo avuto l'onore di avere il film di Bertolucci prodotto da noi a Cannes. E sì, è da pazzi, però insomma, finché la barca regge è più divertente così. È inutile avere produttori filtro, che in qualche modo non portano un valore aggiunto, insomma, ai film. Tanto vale essere produttore in proprio, in modo che te la canti e te la suoni. Meglio sbagliare con le proprie mani. Prossimo PIF, quindi opera prima. Prossimo PIF è opera prima, ancora non sappiamo l'uscita. È una sceneggiatura molto bella, una storia romantica con PIF e Cristiana Capotondi, che è un po' una mia attrice feticcio, insomma, me la porto appresso da un po' di anni, in questo caso come produttore. E io credo che sarà una grossa sorpresa la prossima stagione, il film di PIF, e che appunto rosicherò di non averlo girato io. Senti, io sono venuto qui perché devo dirti una cosa importante. Anch'io? Anche tu? Sì. Ok, va bene, allora avanti, prima tu. Ti volevo chiedere... Sì. Sì. E quel tuo amico, quello mezzo francese, quello carino, che era alla festa con noi? È la storia più vecchia del mondo. Lui ama lei, ma lei ama l'altro. E l'altro è quasi sempre il tuo migliore amico. Data male, eh? Purtroppo prima o poi succede a tutti. Sì, ma quando capita a te, però... Vedi, Molinari, Luca, l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa. L'importante è quello che provi mentre corri. Studia Leopardi. Se all'esame sei in difficoltà, te lo chiedo. Grazie. E per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena è tutto. Ci ritroviamo domani alla stessa ora.